Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Anche oggi siamo in diretta da Expo, siamo in diretta dallo spazio Emilia Romagna, Expo Milano 2015. Se volete venirci a trovare, ci trovate facilmente, siamo vicino al padiglione dell'Unione Europea, siamo sul Cardo, siamo non lontani dall'albero della vite, c'è anche il nostro, ci sono i nostri simboli, insomma, ci identificate abbastanza facilmente. 349-238-6666 per i vostri sms. Di che cosa parleremo oggi? Sicuramente il tema in primo piano resta quello del quale in parte chi era già all'ascolto ha discusso e ha ascoltato nella trasmissione di Oscar Giannino, ossia il tema della Volkswagen, questa truffa vera e propria messa in atto dal grande costruttore tedesco negli Stati Uniti. Che cosa ha fatto? Di fatto ha truccato le centraline per far apparire che le macchine consumassero e facessero meno emissioni di quello che effettivamente facevano. Questo ha comportato il richiamo di 500.000 di vetture, il rischio per Volkswagen di una multa da 18 miliardi di euro e un danno d'immagine impressionante. Probabilmente è anche questo quello che Volkswagen sta scontando in questi minuti sul mercato, quando è arrivata a perdere circa il 20% in borsa. Affronteremo questo tema appunto anche in continuità, se volete, con il racconto che vi ha fatto poco fa Oscar Giannino, lo faremo con Andrea Malan del Sole 24 Ore. L'altra cosa che io vorrei cercare di capire è quanto siano falsabili, quanto possono essere stati falsati questi test. Oggi su Twitter qualcuno scherzava dicendo rischia di essere lo scandalo Euribor delle case automobilistiche, ricorderete lo scandalo finanziario del quale ci siamo occupati, quello delle banche che truccavano nella sostanza il tasso Euribor. Ebbene, bisogna capire se potrebbero essere coinvolte altre case automobilistiche, lo scandalo potrebbe essere esteso al di fuori degli Stati Uniti e quindi anche in Europa. È questo quello che vorrei cercare di capire. Parleremo di economia, di politica economica italiana. Ampiamente è inevitabile che da questo momento in avanti inizieremo ad aprire una serie di capitoli sempre più ampi su tutto questo, perché il 15 ottobre si vara la legge di stabilità. Ebbene, oggi si è tornato a parlare della possibilità di modifiche per quanto riguarda le pensioni. Il tema è sempre quello: la possibilità di mandare, di rendere più flessibile la legge Fornero. Ossia, se uno se ne vuole andare in pensione un po' prima rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero, magari potrebbe aver voglia di farlo, accettando di incassare qualcosa di meno. L'intervento al quale si sta pensando in questo momento, e lo ha chiarito abbastanza bene il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, dicendo che se ne sta ragionando con il Ministero dell'Economia e con Piercarlo Padoan, quello su cui si sta ragionando in questo momento è un'ipotesi che riguardi solamente le donne, oppure anche i lavoratori che sono usciti dal mercato del lavoro, sono abbastanza vicini alla pensione ed evidentemente hanno una difficoltà a ritrovare lavoro. L'altro tema è un tema in realtà di una politica economica che deve riguardare il fisco. Oggi ci sono dei dati molto interessanti pubblicati dal Sole 24 Ore che riguardano la pressione fiscale sui profitti d'impresa, che è stata costantemente in crescita. Nel 2014 più della metà delle imprese ha pagato più tasse rispetto al 2013. Tutto questo tema si intreccia con l'attuazione della delega fiscale, che è ben lontana dall'essere completata. L'altro tema è quello che sta avendo un discreto impatto sui mercati finanziari, almeno quelli europei, nella giornata di oggi, ed sono le elezioni in Grecia. Elezioni in Grecia che come era nelle attese, hanno confermato la vittoria di Syriza e di Alexis Tsipras, che ha ottenuto 145 seggi, il 35% dei consensi. Andrà a un governo che sostanzialmente in termini di coalizione è la fotocopia di quello precedente, ossia un governo insieme ai nazionalisti. Vedremo soprattutto che cosa sarà costretto a fare Tsipras adesso come premier greco. Perché? Perché le elezioni evidentemente hanno ritardato tutte quelle operazioni di riforma che erano state richieste dall'Europa e sottoscritte dallo stesso Tsipras, e quindi in sostanza la Grecia da questo momento in avanti dovrà correre. 349-238-6666 per i vostri sms. Ma prima di partire con le notizie, in breve un breve quadro dei mercati. Si diceva mercati positivi, il FTSE All-Share guadagna un punto percentuale, il FTSE MIB appena sopra l'1,10%, Parigi l'1,27%, Francoforte guadagna appena lo 0,67%, è stata penalizzata in questo caso proprio dalla vicenda Volkswagen. Anche di questo parleremo tra poco, le notizie in breve di oggi. Non so, Alessandro, adesso magari lo chiederemo anche ad Andrea Malan, Alessandro da Imola che ci scrive, o Alessio, Ale da Imola, dice: questo è un assist galattico per le auto ibride americane della Tesla. Mi sembra che le auto della Tesla al momento costino ancora un pochino troppo, e tra l'altro le dico che non sono ibride, sono completamente elettriche. Non so veramente se sia un assist per queste. La stessa Volkswagen ha messo la truffa, quindi non è che insomma gli americani si sono inventati qualcosa. A chi dice invece ridateci Barisoni, non vi preoccupate, arriva domani. L'oro in calo dello 0,6% a $1,130 l'oncia, in risalita invece il petrolio. Il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra a $48.38 al barile, in guadagno dell'1,92%. Il WTI, quello americano, quotato a New York, guadagna il 2,64 a $46.2 al barile. C'è una lettera della Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea, e che forse segnala evidentemente che qualche preoccupazione c'è sulle decisioni che potrebbe prendere la Banca Centrale Europea nell'esame sullo stato delle banche. La Banca Centrale Europea potrebbe chiedere indici di capitale più alti e quindi una solidità patrimoniale delle banche maggiore. La Banca d'Italia avverte che decisioni ingiustificate e arbitrarie in questo esame potrebbero pesare sulla ripresa. Un segnale interessante. È una lettera del vice direttore generale Fabio Panetta, ed è una lettera consultata da Bloomberg, una lettera scritta in agosto. La Grecia, tra poco ci arriveremo, c'è il trionfo di Alexis Tsipras che dovrebbe giurare già questa sera, domani far partire il suo nuovo esecutivo. Mentre il portavoce della Commissione Europea, dice che la Commissione è particolarmente incoraggiata dall'ampia maggioranza pro-europea del nuovo Parlamento. Sono negli auguri del presidente dell'Eurogruppo. La cancelliera Merkel dice che non cambia niente in merito alle riforme che la Grecia deve implementare nell'ambito del terzo piano di aiuti di 86 miliardi concesso a luglio. Si sono sentiti anche Tsipras e Renzi. Renzi si concede una battuta su Varoufakis, dice: le scissioni funzionano molto come minaccia, un po' meno nel passaggio elettorale. Chi di scissioni ferisce, di scissioni perisce. E ovviamente il messaggio è per la minoranza interna del partito. Sempre nella direzione del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio dice: la riduzione del debito è un concetto di sinistra perché siamo contro l'austerity e il rigido rigorismo economico, ma possiamo ben dire che la riduzione del debito è un modo di rispondere alle esigenze dei nostri figli e dei nostri nipoti. Interviene anche sul Jobs Act, sulla riforma del mercato del lavoro, sta dando diritti a coloro i quali erano stati dimenticati in passato. L'ufficio parlamentare di bilancio, al vaglio del quale vanno sempre i documenti di finanza dell'esecutivo, dice che il documento di economia e finanza, che è quello varato venerdì, che contiene le nuove previsioni del governo, che poi daranno il quadro macroeconomico nel quale verrà redatta la legge di stabilità, ossia la vecchia manovra, la finanziaria, un tempo si chiamava così, dice che il quadro tendenziale è in linea per il 2015 e il 2016 con le stime dell'ufficio parlamentare di bilancio, ma si discosta verso l'alto nel 2017 e 2018. Ci sono le dichiarazioni del ministro Poletti e queste saranno al centro anche della seconda parte della trasmissione, perché il governo ha detto lavora l'uscita anticipata delle donne dal lavoro dal 2016 a 62-63 anni con 35 di contributi. Si tratta di una nuova opzione donna che prevederebbe invece del ricalcolo contributivo una riduzione dell'assegno legata alla speranza di vita. E poi anche un'opzione per gli uomini che abbiano perso il lavoro e fatichino a ritrovarlo. Si stanno analizzando tutte le opzioni possibili, dice Poletti. C'è il tema del Colosseo che resta in primo piano, quantomeno in termini di dichiarazioni. Susanna Camusso, dopo ve l'abbiamo raccontato cosa è successo venerdì, un'assemblea dei lavoratori del Colosseo ha impedito di fatto ai turisti di entrare fino alle 11.30 del mattino con lunghe file, una certa rabbia, una certa perplessità soprattutto da parte dei turisti stranieri. Ebbene, dice Camusso, la vicenda dei lavoratori del Colosseo spinge a chiedere di smettere di contrapporre ogni volta l'idea di modernità e civiltà del paese ai diritti dei lavoratori. È interessante però questo. Allora, i lavoratori che cosa hanno fatto? Hanno bloccato l'accesso al Colosseo fino alle 11.30 perché? Perché non venivano pagate una serie di cose da un po' di tempo, per esempio alcuni straordinari, alcuni pagamenti domenicali, e lo hanno fatto in data 18 settembre, venerdì scorso. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha tirato fuori i documenti e ha detto: guardate, qua ci sono le documentazioni che attestano il fatto che abbiamo dato il via libera allo sblocco dei pagamenti, di questi pagamenti, prima dell'assemblea. E quindi era un'assemblea che non avrebbe avuto senso, non avrebbe avuto senso, almeno stando ai documenti indicati da Franceschini. Infine, visto che ne abbiamo parlato venerdì, all'Italia sono le dichiarazioni di Luca Cordero di Montezemolo, che dopo le dimissioni dell'amministratore delegato ha assunto anche le deleghe. Dice: del nuovo amministratore delegato non parlo, c'è molto lavoro e il piano industriale non viene modificato di una virgola, lo stiamo solo implementando. Veniamo al primo tema di giornata, Volkswagen. Siamo quasi in chiusura di seduta, Volkswagen mette a segno un bel meno 19% in questo momento. Ricordiamo che cosa è successo. È successo nella sostanza che Volkswagen ha truffato il governo americano. Ha dichiarato emissioni e consumi per almeno 500.000 vetture prodotte dal 2008 che non erano quelli dichiarati. Ha ammesso l'errore e potrebbe anche saltare la testa dell'amministratore delegato e potrebbe costargli 18 miliardi di dollari di multa, senza contare un danno d'immagine pazzesco. Probabilmente, come si diceva già in apertura, il mercato sta già scontando anche questo. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Andrea, eccoci qua. Oggi abbiamo parlato nel corso di Effetto Giorno anche col condirettore di Quattro Ruote, che ci diceva, insomma, qualche sospetto sul fatto che la dichiarazione di emissioni e consumi, forse non solo di Volkswagen, non fosse proprio in linea, era nell'aria da qualche tempo. Tu che dici? Allora, partiamo dal fondo. Diciamo che almeno in Europa, dove peraltro le norme sulle emissioni di ossidi di azoto, che sono quelle incriminate che stanno pesando su Volkswagen, le norme sono meno severe di quelle americane. Le auto europee possono emettere circa il doppio di ossidi di azoto di quelle americane. Questo tra l'altro potrebbe far sì che in Europa Volkswagen non abbia avuto bisogno di un trucchetto come quello americano. In Europa, dicevo, comunque alcune associazioni ambientaliste, anche con studi pubblicati anche di recente, hanno denunciato il fatto che i test non erano attendibili e che le macchine, poi le automobili, nell'uso normale inquinavano molto di più. Tant'è vero che dopo una serie di polemiche, dibattiti eccetera, la stessa Commissione europea, la stessa Unione europea, a maggio di quest'anno ha approvato nuovi test che dovrebbero entrare in vigore nel 2017 e che dovrebbero dare un'idea delle emissioni inquinanti da un lato e dei consumi dall'altro più realistica. Cioè, io compro una vettura che dichiara di fare 20 km con un litro e ne fa effettivamente 20 e non 15 come succede adesso. Nota che questo, ma gli ascoltatori probabilmente lo sanno, riguarda più o meno ma tutti i costruttori ed è dovuto proprio alla natura molto, molto particolare dei test. Il fatto che i test siano un po' artificiosi, per così dire, è quello che tra l'altro ha permesso ai tecnici della Volkswagen di immaginare, mettere in atto, diciamo, la frode, perché in sostanza è stato, non so se l'avete già detto, inserito nel software della centralina motore un qualcosa che riconosce le condizioni di test. In particolare, siccome i test si fanno su rulli in officina, credo che sia abbastanza semplice: se l'auto sta viaggiando a 90 all'ora ma in base al GPS è ferma, vuol dire che è sui rulli e quindi certo. È in atto. Allora, un test. Allora, Andrea, prova a spiegarla io molto semplicemente e vediamo se ci azzecco, seppur in maniera grossolana. Allora, funziona così: la centralina, il software, è in grado di riconoscere il momento nel quale si fa il test. Esatto. Su quella base stabilisce un livello fittizio di consumi e di emissioni, dopodiché quando la macchina arriva in strada si comporta in un altro modo, in sostanza. Sì, non è proprio così. Ho capito, diciamo, bene. Che, allora, sì, il software praticamente quando riconosce il test attiva un meccanismo che c'è nel motore e è quello che riduce le emissioni, che può essere una specie di catalitica, adesso non entro nei dettagli tecnici. Questo, diciamo, meccanismo antinquinamento viene attivato solo nei test e non nella guida normale. Perché, ci si potrebbe chiedere? La risposta probabilmente è duplice, cioè il fatto di frenare l'emissione di ossidi di azoto nei diesel fa salire un po' i consumi e riduce un po' le prestazioni. Questo è un po', se vi ricordate, quello che era successo 20 anni fa quando era stata introdotta la catalitica. La catalitica strozzava, riduceva le prestazioni e faceva salire i consumi. Sì. È una cosa simile, per cui Volkswagen dice: io voglio vendere dei diesel negli Stati Uniti e voglio vantare le grandi performance e i consumi ridottissimi per fare concorrenza a quello che è il grande nemico delle auto europee negli Stati Uniti, cioè gli ibridi delle case giapponesi. Sì. Quindi devo puntare su questi due aspetti e quindi devo trovare il modo di massimizzarli, però siccome così facendo devo accettare un livello di emissioni di ossidi di azoto un po' superiore, devo eliminarlo solo nei test, e qui il software. Sì, sì. Ecco, allora, quindi questa è la sostanza, cioè il meccanismo si attiva in fase di test e si disattiva appunto nel momento nel quale è in strada. Quanto ritieni possibile che altre case automobilistiche europee, mettiamola così genericamente, possano aver sfruttato lo stesso meccanismo? Diciamo che vale quello che ho detto all'inizio. Negli Stati Uniti è il mercato su cui il diesel è meno diffuso insieme al Giappone, proprio perché da un lato il gasolio costa più della benzina, dall'altro gli americani sono convinti che il diesel sia un motore sporco. Quelli che stanno facendo da alcuni anni una campagna che si chiama proprio Clean Diesel, diesel pulito, sono i costruttori tedeschi, quindi oltre al gruppo Volkswagen, Audi e Porsche, ci sono BMW e Mercedes. BMW per ora ha detto che non ha attuato meccanismi di nessun tipo, che i suoi diesel sono assolutamente in regola, in linea con le norme americane. Gli altri costruttori europei o non ci sono, come la Peugeot, oppure come la Fiat, hanno una quota, praticamente la 500, che è il modello Fiat venduto, si vende nella versione a benzina. La Fiat esporta alcuni diesel alto di gamma 3 litri prodotti dalla VM che vengono montati per esempio su alcune vetture alto di gamma, però si tratta di volumi estremamente limitati e di esportazioni abbastanza recenti per quanto riguarda la Fiat. Certo. Quindi il grosso, diciamo, sono i tedeschi che sono protagonisti di questa offensiva del diesel. Certo, una cosa è sicura: dopo questo fatto, al di là della multa che potrà essere combinata dalla Volkswagen, il destino per i diesel negli Stati Uniti si rivela molto difficile. Cioè, rischia di essere molto... Allora tutto questo è chiarissimo, Andrea. Noi adesso ci prendiamo una pausa. Tra l'altro ci sono moltissimi sms di ascoltatori ai quali in parte cercheremo di rispondere. Quello che voglio capire da te dopo la nostra pausa è innanzitutto la cosa fondamentale: quali sono a questo punto le prospettive della dirigenza del gruppo, perché mi sembra di capire che l'amministratore delegato sia fortemente a rischio. Questa è la domanda fondamentale. E poi che cosa può succedere a Volkswagen negli Stati Uniti, non solo a livello di diesel, perché come dicevamo prima il danno d'immagine è devastante, cioè qua non stiamo parlando di un errore di qualche tecnico, stiamo parlando di una vera e propria truffa scientificamente fatta. Quindi una pausa e poi ne parliamo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, seconda parte di Focus Economia in diretta da Expo Milano 2015, dallo spazio Emilia Romagna, 349-238-6666 per i vostri sms. Stiamo parlando del caso Volkswagen, di questa vera e propria truffa messa in atto negli Stati Uniti, dove sono state dichiarate emissioni e consumi molto inferiori rispetto a quelli che effettivamente erano, il che ha comportato l'ammissione da parte di Volkswagen di quello che è successo, il rischio di una multa da 18 miliardi, di multe complessive per 18 miliardi di dollari, un calo del 20% in borsa. Molti ci stanno scrivendo ragionando proprio sul fatto che Volkswagen è un pezzo del volto della Germania e quindi ci sarà danno d'immagine per l'azienda, e probabilmente su questo sono d'accordo, non entro nel dettaglio delle brutalità che leggo, però che ci sarà un impatto anche d'immagine sulla Germania medesima, perché molti vediamo Volkswagen come una rappresentazione fisica della Germania stessa, e insomma il paese che si erge a bacchettatore dei bilanci con i paesi del sud, questi orrendi truffatori che poi mette in atto qualcosa di questo genere. Vorrei però rimanere sull'azienda in sé stessa. Siamo ancora con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Allora, l'amministratore delegato della Volkswagen, Martin Winterkorn, dice: lo abbiamo ammesso davanti alle autorità, corrisponde a verità, collaboriamo attivamente con le autorità. Fatto sta, Andrea, che questa cosa va avanti dal 2008, Winterkorn ha preso le redini dell'azienda nel 2007 e quindi mi sembra che la sua testa sia a rischio rotolamento, per dirla in maniera brutale. La testa è sicuramente a rischio rotolamento. Abbiamo appreso qualche minuto fa dalla stampa tedesca che per mercoledì, cioè dopodomani, è convocata una riunione del presidium del consiglio di sorveglianza, una sorta di comitato ristretto con i 5 o 6 più autorevoli membri del consiglio di sorveglianza, che sappiamo è in cima alla piramide di governo della Volkswagen e che sovraintende direttamente anche il lavoro dell'amministratore delegato. Quindi sicuramente qualche cambio ci sarà. Ricordiamo che Winterkorn è stato protagonista nei primi mesi di quest'anno di grosse polemiche, se n'è andato il presidente Ferdinand Piëch dalla Volkswagen, Winterkorn ha conservato il suo posto, gli è stato rinnovato il mandato di recente. Però già si parlava di, diciamo, un Winterkorn dimezzato, perché è stato nominato anche un responsabile della marca Volkswagen, che è quella più in difficoltà. Insomma, è un gruppo che ha già dei problemi, e sicuramente una multa, una maxi multa e una figuraccia di questo tipo a livello planetario rischiano di essere una goccia abbastanza grossa che potrebbe far traboccare il vaso. Comunque questo lo sapremo sicuramente tra qualche giorno, al massimo tra qualche giorno. Sì, e concordo un po' con l'ascoltatore che ci scrive: se questa cosa l'avesse fatta la Fiat, ci saremmo flagellati, non solo, ma probabilmente gli stessi tedeschi ci avrebbero flagellato. Ma al di là di questo, Andrea, c'è qualche ascoltatore che ci dice: ma una multa da 18 miliardi, ammesso che sia questa la dimensione, perché da quel che ho capito probabilmente verrà ridotta, da quel che dicevi anche tu, che impatto avrebbe sui bilanci dell'azienda dal punto di vista finanziario? Poi danno d'immagine, appunto, vedremo che peso avrà. Allora, 18 miliardi innanzitutto è un valore puramente teorico, calcolato moltiplicando la multa massima per veicolo per il numero di veicoli venduti. Io faccio un esempio che ho già citato, diciamo che per casi non simili a questo ma comunque gravi, come quello dei veicoli di Toyota che acceleravano da soli, o del blocchetto d'accensione GM che perdeva la chiave e che quindi fermava il motore anche in autostrada, sono tutti e due casi che hanno provocato decine se non centinaia di morti, e per questi le due aziende sono state punite con multe che in un caso sono $1.2 miliardi e nell'altro $900 milioni, perché si trattava di difetti di fabbricazione che non sono stati adeguatamente sorvegliati, a cui non è stato posto rimedio. Quindi diciamo che da un punto di vista sostanziale della gravità del fatto è probabilmente meno grave, perché nel caso di Volkswagen c'è una voluta frode al regolatore, però come conseguenze, certo, le emissioni superiori alla norma sono gravi, perché poi alla lunga sappiamo avere conseguenze sulla salute, ma con un impatto immediato inferiore. Questo per dire che la multa potrebbe essere di qualche miliardo di dollari, ma difficilmente arriverà a 18. Se c'è un gruppo, probabilmente insieme a Toyota, che potrebbe resistere anche a una multa da 18 miliardi di dollari, forse è la Volkswagen che ha delle riserve di cassa ancora superiori. Certo, se fosse davvero di questa entità la multa, la sua capacità di competere nel breve periodo verrebbe molto limitata. Ultimissima domanda che ti chiedo in breve, Andrea. Tu ci citavi il fatto che, come dire, in qualche modo la storia del diesel a questo punto negli Stati Uniti può dirsi per certi versi esaurita. Vorrei capire da te se una cosa di questo genere può decretare, non dico la fine di Volkswagen stessa negli Stati Uniti, ma comunque un impatto molto pesante, come si diceva, anche a livello di immagine. Insomma, non è che vado a comprare volentieri la macchina di un'azienda che di fatto ha compiuto una truffa nel mio paese, no? Assolutamente. Volkswagen, tra l'altro, è già in un momento difficile negli Stati Uniti, perché è vero che ha inaugurato una fabbrica pochi anni fa, quindi sì, è accreditata come costruttore locale, questo agli occhi degli americani è molto importante, però è anche vero appunto che non è mai riuscita fino all'anno scorso ad aumentare più di tanto le vendite. L'anno scorso ha segnato un meno 2% contro più 6 del mercato, ha avuto difficoltà di mercato, di trovare prodotti adeguati, eccetera, e ha scommesso molto sul diesel. Se il suo cavallo di battaglia viene in qualche modo azzoppato in questo modo, certo, avrà sicuramente difficoltà maggiori. Questo è poco ma sicuro. Diciamo che dovrà rinviare a chissà quando il piano per raggiungere 1 milione di auto, che faceva parte del famoso piano per arrivare a 10 milioni nel 2018. Grazie, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Messaggi irripetibili, eh? Ogni volta che castigano un tedesco io godo, ci scrive un ascoltatore. Allora, andiamo a sentire che cosa succede a proposito sulle strade italiane. Ci ritroviamo subito dopo e passiamo da Volkswagen a parlare di Grecia. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento Focus Economia. Beh, Beppe ha ragione, dice, ma come, stasera che c'è da massacrare i tedeschi, Barisoni non c'è. Io, guardi, se ben lo conosco, dato che torna domani, non mancherà. A caso Volkswagen sono dedicati anche i 100 secondi di Radio 24 in collaborazione con RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Il pugno duro del governo americano contro le frodi e i danni del consumatore si è nuovamente abbattuto sull'industria dell'auto. La scoperta di un software segreto che permetteva alla Volkswagen di abbattere il livello reale delle emissioni su quasi 500.000 vetture diesel vendute negli Stati Uniti potrebbe costare infatti miliardi di dollari in multe alla casa tedesca, già peraltro colpita duramente dagli investitori di borsa con un ribasso del titolo di oltre il 20%. Il caso sta muovendo i primi passi, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo, diventando un'umiliazione pesantissima per la Volkswagen e soprattutto un gravissimo danno d'immagine per l'intera corporate Germany e soprattutto per il governo, che in tema di sicurezza e di affidabilità del prodotto tedesco ne ha fatto sempre una ragione di orgoglio. In realtà questo è solo l'ultimo caso di una serie di gravi violazioni commesse non tanto dalla Volkswagen quanto da gran parte dei colossi automobilistici mondiali in tema di emissioni, sicurezza e affidabilità dei veicoli. Prima della Volkswagen, le autorità USA avevano infatti sanzionato con una multa da oltre 100 milioni di dollari la Hyundai per aver mentito sui consumi e sulle emissioni delle Hyundai, ma anche delle Kia. E lo stesso gruppo italoamericano FCA, Fiat Chrysler, accusato di non aver ritirato dal mercato quasi 11 milioni di minivan e furgoni Chrysler pericolosi o difettosi, è stato multato per oltre 120 milioni di dollari. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche in tempi di ripresa l'America non intende abbassare la guardia sugli abusi condotti ai danni del consumatore. Prima erano le banche, ora è l'industria dell'auto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ci dice un ascoltatore, anche giustamente, attenzione, e questa attenzione la porremo alle ripercussioni sulle aziende italiane fornitrici di Volkswagen. Veniamo alla Grecia. Allora, vittoria netta di Alexis Tsipras con un 35%, 145 seggi. I conservatori di Nea Democrazia hanno preso il 28%, quindi si mantengono più o meno sugli stessi livelli. Questa sera Tsipras giurerà nelle mani del capo dello Stato. Domani partirà il nuovo esecutivo. Forse possiamo sentire un passaggio dell'intervento di Tsipras. Dice, ha detto Tsipras, tra le altre cose, un mandato di 4 anni, lottiamo per un altro domani, Syriza è troppo dura per morire. L'inviato del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio Darold, buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Allora, lottiamo per un altro domani, dice Tsipras, e la lotta a quanto pare sarà molto dura perché questa storia delle elezioni, come dire, ha lasciato un po' indietro qualche pezzo del memorandum firmato con i creditori e con l'Unione Europea, memorandum con le riforme che la Grecia deve mettere in atto, no? Sì, esattamente. Durante la campagna elettorale, seppur breve, naturalmente si è fatto appunto, ognuno è tornato nelle proprie diciamo, attività politiche e hanno dimenticato gli impegni appena sottoscritti il 12 e 13 luglio con il piano da 86 miliardi e però con un piano ben preciso di riforme da barare e soprattutto applicare nella realtà. Quindi ci sono adesso, naturalmente c'è una stabilizzazione perché il governo è in qualche modo più coeso perché è quasi una fotocopia di quello precedente, gli stessi ministri probabilmente siederanno nelle posizioni chiave, ma il percorso è a ostacoli perché il governo adesso deve affrontare una cosa molto più complessa, cioè fare le riforme impopolari, dovranno essere riviste ad esempio dei benefici fiscali per gli agricoltori e questo è un elemento molto delicato perché sono come dire, una lobby molto forte all'interno del paese, poi ci sono da tagliare le famose baby pensioni che anche questo creeranno non pochi problemi di attuazione. Poi naturalmente c'è il grosso tema delle privatizzazioni, cioè c'è 1,2 miliardi che deve essere appunto messo in cantiere di vendita degli aeroporti regionali prima della fine dell'anno e questi aeroporti regionali dovrebbero essere venduti proprio all'aeroporto di Francoforte, creando però anche qui dei malumori abbastanza forti. Poi, se tutto questo va bene, ad autunno ci sarà il primo tagliando, cioè la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario che partecipa comunque al controllo, anche se non partecipa al piano di salvataggio, faranno il tagliando, cioè andranno a verificare se queste riforme sono state fatte. A quel punto, se passa l'esame, la Grecia ottiene il via libera per la ricapitalizzazione delle banche, un elemento importantissimo perché in questo momento, come sapete, ci sono ancora i controlli dei capitali, cioè c'è un limite giornaliero sopra il quale le persone non possono appunto prelevare. Questo è importante perché le banche senza appunto la ricapitalizzazione da 25 miliardi non hanno la possibilità di fare credito. In questo momento gli istituti di credito galleggiano, ma non danno naturalmente quel credito necessario all'economia reale. Tutto questo per arrivare a gennaio per togliere il controllo di capitali. Sì. Detto tutto questo, rimane la madre di tutte le riforme, sì, o se vuoi di tutti i problemi, che è il debito da tagliare. Che è il grande problema greco. Allora, io Vittorio Darold ti ringrazio per questa corrispondenza. Comunque i mercati hanno reagito bene all'andamento delle elezioni greche. Proprio di mercati parleremo dopo il giornale radio. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Siamo in diretta da Expo, dallo spazio Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, un ascoltatore mi fa notare, l'ho fatto anche prima, che forse non abbiamo sottolineato abbastanza quanto abbia pesato la stensione in Grecia. Tenga presente che innanzitutto questa è una trasmissione che si occupa di cronaca della giornata economico-finanziaria e quindi abbiamo guardato più agli effetti di questo voto che non a quello che è successo effettivamente nelle urne. Dall'altra parte, se vuole una mia personalissima opinione, è preoccupante per lo stato della democrazia quando c'è poca gente che va al voto. È vero anche dall'altra parte che chi decide di non votare ha fatto anche una scelta politica. Chi sottolinea invece Alba Dorata, terzo partito, è vero, è sempre un partito del 7% però, eh? Quindi questo è. Bene, siamo ai mercati, mercati che oggi non sono disgiunti dalla vicenda greca. Milano su dell'1,03% sul FTSE All Share, dell'1,12% sul FTSE MIB. Bene, Parigi più 1,09%, Francoforte più 0,33%, ha risentito fortemente di tutta la vicenda Volkswagen, della quale abbiamo ampiamente parlato nella prima parte della trasmissione, questa truffa sulle emissioni e sui consumi ammessa oggi dalla stessa Volkswagen negli Stati Uniti. Ciao Condi, nella Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, l'impatto della Grecia innanzitutto, del voto in Grecia. Beh, direi positivo. Se fino a qualche trimestre fa, qualche mese fa, Siriza spaventava i mercati, stavolta è stato l'opposto, perché di fatto con Tsipras è stato trovato un accordo quadro sul debito greco, quindi è lo stesso interlocutore che i mercati hanno avuto, e soprattutto gli investitori istituzionali hanno avuto poche settimane fa, ce l'avranno anche nei prossimi mesi per implementare questo piano, quindi insomma un mantenimento dello status quo che ha sicuramente dato benzina alle borse oggi. Sulla scorta del caso Volkswagen, debole è un po' tutto il settore. Volkswagen ha perso il 20% oggi, e però Fiat alla fine non se la cava male. Fiat Chrysler un meno 0,31% comunque. Sì, inevitabilmente tutto il settore auto in Europa ha risentito di questo crollo di Volkswagen. Fiat, come dicevi tu, è andata bene, sostanzialmente bene, visti i competitors, meno 0,3%. Dico bene perché per esempio sul listino di Francoforte Renault ha perso il 3,18% e Peugeot il 2,5%. Quindi tutto sommato non male per Fiat Chrysler. Sì, ha limitato i danni. Tra i migliori oggi molti titoli del lusso, a partire da Luxottica che guadagna il 4,3%, bene anche Yux più 3,5%, Moncler più 2,03%. Ceo. Diciamo che erano stati titoli che erano stati comunque penalizzati nelle ultime settimane, soprattutto in virtù di quelle che erano le preoccupazioni dal sud-est asiatico. Oggi una giornata di buoni rialzi comunque su tutte le borse, in particolare anche a Milano. Ormai Milano è fatta sostanzialmente da banche e lusso, e quindi non stupisce che fra i primi titoli troviamo appunto questi. Anche tra le banche, Intesa San Paolo, Sveta con un più 2,6%. Bene, anche Buzzi Unicem oggi più 3,28, Mediaset più 3,2, Enel più 2,6, dicevi Intesa San Paolo più 2,6, Campari più 2,34, Tenaris più 2,04. In fondo al listino Eni meno 0,69%, mentre Saipem si tiene in perfetto pareggio. Eh sì, mi citavi anche Buzzi, su Buzzi c'era oggi un report di Kepler, ma in generale il mercato punta su ulteriori operazioni di consolidamento in Europa. Il report di Kepler che citavo prima consigliava di acquistare sia il titolo di Buzzi che quello di Cementire, perché sulla scia dei mega merger Lafarge Holcim e Heidelberg Cement Italcementi nei prossimi mesi potrebbero prendere piede altre operazioni straordinarie, di qui i forti acquisti su Buzzi più 3,3% e su Cementire che ha guadagnato più del 6%. Possiamo fare anche un cenno a Mediaset più 3,2%, la società ha comunicato di aver conquistato 100.000 nuovi clienti su Premium, ricordiamo che tutta la campagna di Premium è incentrata sulla Champions League in esclusiva appunto su Mediaset Premium. Il target annuale che era stato posto era stato di 200.000 nuovi clienti, quindi siamo sostanzialmente a metà del cammino. Infine Saipem. Su Saipem tornano le indiscrezioni su un aumento di capitale che si vogliono, alla fine potrebbe essere davvero inevitabile perché il debito della società è troppo grosso per essere sostenuto, c'è del debito in eccesso, aumento di capitale che secondo le ultime indiscrezioni di stampa potrebbe superare i 3 miliardi, vedrebbe la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, poi c'è anche da valutare il ruolo di Eni che è azionista di maggioranza e se parteciperà o no a questa eventuale ricapitalizzazione. Chiaramente un'operazione di ricapitalizzazione non giova al titolo, che chiude sulla parità, era arrivato anche a perdere l'1% in una giornata comunque positiva per la borsa. Grazie a Ceo Condina di Radio Corri Il Sole 24 Ore. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi apriremo il capitolo politica economica con due fronti: da una parte la composizione in generale della legge di stabilità, soprattutto dal punto di vista fiscale, e dall'altra parte il tema delle pensioni. C'è già qualche domanda di ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, che ci scrivono, perché tra le ipotesi che stanno circolando e sulle quali starebbe ragionando il governo è di consentire un'uscita dal lavoro più flessibile per le donne, a patto che siano disposte ad accettare un assegno inferiore a quello che avrebbero avuto se fossero andate in pensione all'età regolare. A tra un attimo. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Per chiudere il capitolo Volkswagen, almeno per oggi, mi scrive un ascoltatore, Ulisse, dice: ma mi sembra che l'accusa si risolva nell'aver deliberatamente truffato per presentare meglio il proprio prodotto. Allora Ulisse, allora forse non ci siamo spiegati bene noi. Non è stato questo, è stata una comunicazione truffaldina alle autorità americane, cioè Volkswagen ha detto: abbiamo queste emissioni e questi consumi, e lo ha detto alle autorità americane, non è che ha presentato meglio il proprio prodotto, ha cambiato il software della centralina per far apparire che il suo prodotto avesse quei consumi e quelle emissioni, e poi quando era su strada non era così. Quindi è proprio, non è una cosa pubblicitaria per presentare meglio il proprio prodotto, è proprio una truffa. Comunque, veniamo alla manovra. Il governo è al lavoro per la prossima legge di stabilità, nell'intenzione dell'esecutivo e alla luce delle revisioni su crescita e deficit presentate nel DEF varato venerdì, dovrebbe avere un impianto espansivo, e questo lo speriamo tutti, e un valore di circa 27 miliardi di euro. Due fronti vogliamo affrontare adesso, quello fiscale e quello delle pensioni. Ci sono i dati del Sole 24 Ore su un'imponente indagine fatta da Infocamere che mostra come nel triennio tra il 2012 e il 2014 la pressione fiscale sui profitti d'impresa sia aumentata in un caso ogni due, cioè un'azienda ogni due. E negli ultimi due anni, nonostante tutti gli annunci, i microinterventi, tutto quello che volete, ha subito un aumento della pressione fiscale. È un'analisi su 240.000 bilanci, quindi non è che stiamo parlando di un'indagine statistica fatta su 1.000 aziende a sondaggio. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Il grande capitolo è esattamente quello fiscale di questa manovra. Adesso arriveremo anche alle pensioni, fatemelo salutare, è in linea anche Davide Colombo, sempre del Sole 24 Ore. Davide, buonasera. Buonasera a voi. Veniamo anche al capitolo delle pensioni, però io voglio partire da quello fiscale. Allora Salvatore, qua come dire, appunto, è il vero capitolo in una manovra che Renzi professa come espansiva, è là che si deve andare, e visti i dati di oggi forse non è con IMU e TASI prima casa che si risolve il problema. Guarda, hai detto bene, oggi noi usciamo sul Sole 24 Ore con questa indagine su 200 e rotti mila bilanci di società dal 2012 al 2014, è una cosa diciamo imponente, perché il campione diciamo tiene traccia nel triennio dell'andamento dei bilanci delle stesse società, quindi diciamo è una fotografia abbastanza direi attendibile, molto attendibile. Viene fuori che nonostante insomma tante cose siano onestamente state fatte in questo periodo, però come dire, la pressione del fisco sulle imprese continua a restare a livelli molto alti. Ci sono imprese, società che diciamo hanno pagato il 46,5% degli utili del risultato di bilancio se l'è preso il fisco. A livello territoriale la cosa, diciamo, le differenze sono ancora più marcate, queste percentuali sono ancora più pesanti. Allora che cosa diciamo succederà guardando avanti? Succede che andiamo verso una legge di stabilità che al momento, come pacchetto diciamo importante dal punto di vista del taglio della pressione fiscale, propone e sembra destinato a portare un intervento sul taglio delle tasse sull'abitazione, sulla prima casa, che sarà esteso anche a una parte delle tasse diciamo immobiliari sui terreni agricoli, sugli edifici agricoli, e anche una piccola parte che riguarda alcune diciamo tipologie di impianti industriali. La nostra sensazione è che forse ci vorrebbe un po' più di coraggio, e diciamo andando a un intervento che il governo pure ha annunciato, no? Però diciamo un po' più spostato in là nel tempo, e che riguardi insomma le imprese ma anche le persone, quindi diciamo un doppio intervento che deve in qualche modo servire ad alleggerire le tasse sul lavoro e le tasse sulle imprese. Sulle imprese. Probabilmente diciamo questa è la priorità vera in questo momento. Ciò detto, è evidente che anche un intervento volto a ridurre le tasse sull'abitazione è un intervento utile, per carità, però forse in una scala di priorità sarebbe forse più utile pensare di partire dagli altri due elementi. Cioè il lavoro, elementi come molti economisti sostengono, tra l'altro. Un'ultima cosa, Salvatore, prima di salutarti e lasciarti al tuo lavoro, oggi nel commento che firmi sul Sole 24 Ore metti l'accento su un elemento: l'attuazione della famosa delega fiscale, che poi doveva essere in parte la grande svolta anche in termini di rapporti tra imprese, cittadini e fisco, attuazione che mi sembra di capire va piuttosto rilento. Sì, l'attuazione diciamo è andata rilento, perché in realtà domani si concluderà, perché domani molto probabilmente o dopodomani adesso il governo approverà il pacchetto di 5 decreti legislativi che ancora diciamo mancano all'approvazione della delega, però anche quando avrà superato questo ulteriore appuntamento, diciamo nel suo complesso solamente metà dei principi previsti dalla delega fiscale ha trovato attuazione, quindi diciamo una percentuale non altissima verso un provvedimento sul quale insomma gli operatori, i professionisti, le imprese, tutti i contribuenti avevano grosse aspettative e lo vedevano un po' come l'elemento decisivo per cambiare, per cercare di cambiare un po' il volto al sistema. In realtà insomma, qualche risultato, ripeto, se altro arrivato, sarebbe giusto non riconoscerlo, però forse qualcosa manca e a guardare bene forse la prima cosa che manca è proprio una riforma che abbia e che possa avere come obiettivo principale anche quello di cominciare a scalfire, a ridurre un po' l'entità del prelievo, ripeto, sia per le persone sia per le imprese. Ti ringrazio, grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Rimaniamo con Davide Colombo, sempre del Sole 24 Ore, perché l'altra partita che si sta cercando di giocare, anche se inferiore rispetto a quella del taglio IMU e TASI, è quella delle pensioni. Oggi ne è tornato a parlare il ministro Poletti. Che cosa si sta ipotizzando, Davide? Mi sembra di capire che sia un intervento che riguarda soprattutto le donne e coloro che perdono il lavoro e che hanno poca possibilità di ritrovarlo, insomma coloro che sono in età avanzata, no? Sì, guarda signore, oggi il Ministro del Lavoro ha fatto una dichiarazione che è riferita a come dire, una sorta di paletto per evitare che i nuovi requisiti che entrano in vigore dal gennaio prossimo possano in qualche modo bloccare il turnover, lui ha detto, cioè l'uscita di lavoratori per fare spazio a nuove assunzioni. Dopodiché ha smentito in parte le anticipazioni che sono uscite sulle agenzie e sui giornali in questi giorni, rilanciando appunto una dichiarazione del tipo che stiamo lavorando un po' su tutti i fronti. Certamente la soluzione che verrà poi trovata deve essere una soluzione che impatta il meno possibile sul disavanzo, perché come dicevate prima la manovra è impostata in maniera estremamente critica con 17,9 miliardi di maggiore indebitamento sull'anno 2016 che vengono richiesti utilizzando le clausole di flessibilità e viene chiesto al Parlamento di votare per il secondo anno consecutivo a maggioranza assoluta l'autorizzazione al rinvio dell'obiettivo di medio termine che equivale al pareggio all'equilibrio strutturale di bilancio. Bisogna capire se questo passaggio avverrà in maniera come dire, ordinata, perché vale la pena ricordarlo che ci sono regole europee e regole italiane per autorizzare lo spostamento dell'obiettivo di medio termine e le regole italiane molto semplicemente prevedono delle situazioni di forte squilibrio economico, eventi eccezionali. Ora tra aprile e settembre lo scenario economico invece è migliorato, per cui si tratta di capire come questo passaggio verrà affrontato. Nei prossimi giorni ci saranno le audizioni parlamentari di tutte le istituzioni che fanno un po' parte della partita di giro di questa confronto di politica di bilancio, quindi la Banca d'Italia, l'Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio che oggi ha reso noto le motivazioni della sua validazione del quadro tendenziale macroeconomico e nei prossimi giorni dovrà anche validare il quadro programmatico, cioè le stime di maggior crescita dell'1,6%, come dicevi tu, l'impostazione del governo è per un'espansione, per una manovra espansiva, ma si tratta di capire si realizzerà. Le pensioni di questa manovra espansiva occuperanno uno spazio sicuramente molto contenuto, le ipotesi sono come dire tutte aperte. Diciamo quello sulle donne è quella più intuitiva, nel senso che qui chiudo i requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle donne dipendenti del settore privato a gennaio hanno un brusco innalzamento, 22 mesi in più diciamo di requisito anagrafico per un pensionamento di vecchiaia. Allora, Allora Davide, guarda, io devo veramente chiudere perché sennò mi ammazzano, e devo già chiedere scusa a Giuseppe Cruciani per il ritardo di circa un minuto che gli lascio indietro. Avremo modo di parlare nelle prossime settimane, ci torneremo sicuramente. Grazie a tutti, ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno.